2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Se volete raggiungerci dopo la trasmissione, durante la settimana, quando volete, per scriverci un messaggio, una vostra impressione, una vostra considerazione, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Iniziamo con una notizia importante, è tendenzialmente una buona notizia. Enel ha deciso di costituire una società per realizzare un'infrastruttura in fibra ottica accessibile a tutti gli operatori di telecomunicazioni utilizzando la rete elettrica gestita da Enel Distribuzione. Allora, non si tratta di usare i fili elettrici direttamente, sapete che c'è una tecnologia che si chiama Powerline che permette di utilizzare i fili elettrici anche per trasportare dati, ma quella tecnologia funziona molto bene in ambito locale, all'interno di una casa, all'interno di un ufficio. Sulle lunghe distanze tutte le sperimentazioni hanno portato ad una considerazione finale tale per cui questa tecnologia non è tanto buona, però si tratta di posare, in questo caso questa società poserà fibra ottica vicino a tutti i cavi, sfruttando i cavidotti, le canaline e approfittando di un'operazione che Enel aveva già pianificato di fare per collegare i contatori elettrici anche in vista di sviluppi futuri nella Internet of Things, nella Smart Home. In questo scenario Enel aveva pianificato di collegare tutti i contatori di energia elettrica in fibra ottica. Allora, da qui una considerazione: ma perché poi non mettere a disposizione questa fibra ottica anche per un altro utilizzo, quindi magari per altri operatori? Questa società infatti sarebbe neutrale rispetto al business delle telecomunicazioni, perché Enel poi non offrirebbe un servizio di telecomunicazioni, metterebbe a disposizione questa infrastruttura per gli operatori classici che conosciamo. Vodafone e Wind hanno già applaudito e hanno dichiarato di essere interessati a collaborare con Enel. Vedremo che si farà avanti nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, ma insomma è una notizia che era un po' attesa dal mercato, ma sicuramente una buona notizia. Però attenzione a credere che questa società cabli tutta l'Italia subito con la fibra ottica. Da qui a far tutto ciò ce ne passa, insomma, dall'annuncio a far tutto ciò. Allora, ancora non si sa che cosa farà, quando lo farà, dove lo farà. È sicuramente, dicevo, una buona notizia, ma la situazione è ancora un po' nebulosa. È molto probabile, anzi direi quasi sicuro, che dietro questo annuncio ci sia una strategia del governo. Non è che Enel si muove senza aver parlato con il governo, e comunque è un auspicio di tutti gli esperti di telecomunicazione avere una società neutrale con la partecipazione di tutti, così come succede nelle altre infrastrutture. C'è una rete neutrale, tutti gli operatori si fanno concorrenza nell'offrire servizi ai consumatori finali. Però vedremo e sentiremo quello che dirà Telecom, che è invece abituata ad avere un monopolio naturale, quindi a controllare la rete e a giocare con la propria forza. E in questo caso naturalmente questo scenario scombussola un po' i piani di Telecom Italia, che in qualche modo reagirà. Però se il governo va avanti per la propria strada, quasi tutti sono d'accordo. In molti sono d'accordo, noi siamo d'accordo, ecco così. Dunque, c'è un'altra notizia a proposito di fibra ottica che si è commentata questa settimana. La presa di posizione di Xavier Niel, che è proprietario dell'operatore francese Free, l'operatore di telecomunicazioni, ma è conosciuto in Italia per avere rastrellato in borsa titoli e diritti per avere titoli e azioni in futuro di Telecom Italia. Però Free ha citato in giudizio SFR, che è un operatore di telecomunicazioni francese, per concorrenza sleale, perché usa nelle pubblicità il termine fibra ottica anche per i collegamenti che sono in realtà fatti in fibra solo fino ad un certo punto della rete, poi proseguono in rame. Siamo abituati in Italia, soprattutto Telecom Italia e Fastweb fanno pubblicità facendo credere che molti dei collegamenti siano fatti in fibra ottica, quando poi la percentuale di fibra ottica di questi collegamenti è molto bassa, cioè si arriva fino all'armadio di strada e poi da lì si continua con il rame. Ma in molti casi molti esperti giudicano queste pubblicità ingannevoli, poi saranno eventualmente autorità a dire se queste pubblicità sono fatte bene o non vanno bene. Però nel mercato qualche cosa si sta muovendo, quindi nelle prossime settimane potremmo forse raccogliere e registrare qualche annuncio, perché ci sono altri operatori che dicono però questo atteggiamento non va del tutto bene. Vedremo che cosa succederà. Sicuramente in molti casi queste pubblicità appunto fanno sembrare una cosa che in realtà non è. Continuiamo con le nostre Digital News. Digital News. Secondo i dati AudiWeb, a settembre si sono connessi ad internet 28,8 milioni di italiani. Gli utenti che si collegano da smartphone o da tablet, quindi in mobilità, sono 20,7 milioni. Facebook ha lanciato solo per iOS, solo negli Stati Uniti, una nuova app chiamata Notify, con la quale è possibile ricevere notifiche di notizie da varie fonti. Sempre solo per gli Stati Uniti, ma in questo caso sia per iOS che per Android, è stato lanciato YouTube Music, solo video musicali senza pubblicità a $10 al mese. Infine una notizia che riguarda Apple Music, che è ora disponibile anche per Android, e questa notizia vale anche per l'Italia. TomTom ha annunciato un accordo pluriennale a livello globale per fornire le sue mappe, ma soprattutto il famoso, molto noto servizio TomTom Traffic a Uber, che lo userà per migliorare le previsioni di arrivo delle proprie automobili in tutto il mondo. Parliamo di e-commerce. Perché non si può usare la carta Bancomat per pagare online? Allora, questa cosa però non durerà ancora per molto, perché il consorzio Bancomat ha annunciato che da inizio 2016 l'utilizzo della tessera del Bancomat sarà esteso agli acquisti online. Vedremo poi quanti saranno gli esercenti ad offrirla come opzione di pagamento, anche se in effetti il Bancomat è probabilmente lo strumento di pagamento digitale più diffuso in Italia. Adesso il primo dei nostri approfondimenti di questa puntata di 2024, parliamo di soldi, di come la tecnologia ha già cambiato il modo di gestire ad esempio i nostri soldi. Pensate all'home banking, a tutto quello che noi possiamo fare via internet per gestire i nostri risparmi. Molte cose potranno essere fatte, già molte cose si stanno facendo. Per parlare di questo è con noi Giovanni Daprà, che è l'amministratore delegato di Money Farm, uno dei fondatori di Money Farm. Benvenuto 2024. Grazie. Voi siete una società che si occupa di gestione del risparmio, poi spieghiamo bene come lo fate, sfruttando la tecnologia. Ti faccio subito una domanda: siete una startup? Siete stati fondati nel 2011? Noi siamo stati fondati nel 2011, abbiamo iniziato nel 2012. Se startup lo intendiamo come modo di pensare, di lavorare, assolutamente sì. Avete ricevuto questa settimana, o comunque avete annunciato questa settimana, di aver ricevuto un finanziamento molto importante, che è uno dei più alti per una startup di questo genere in Italia, 16 milioni di euro, una cifra significativa. Diciamo che io dico spesso che quando con le startup parliamo di decine di migliaia di euro non andiamo da nessuna parte, ci vogliono milioni di euro per scalare, come si dice in gergo, per andare anche all'estero. Voi operate solo in Italia per il momento? Per il momento sì, però l'idea sottostante questo finanziamento è stata proprio quella di costruire una piattaforma leader in Europa, e inizieremo ad operare in Inghilterra a gennaio. Sì, questo finanziamento è stato erogato da Cabot Square Capital, che è una società britannica, e United Ventures, che è un venture capital italiano. Cosa fate? Allora, noi aiutiamo le persone a gestire i propri risparmi. In particolare ci rivolgiamo al consumatore, diciamo medio-piccolo, che non trova spesso e volentieri una risposta semplice dal sistema tradizionale. Tramite la tecnologia noi gli proponiamo una soluzione di investimento online, semplice e trasparente, e a una frazione del costo di quello che troveresti dal tuo intermediario tradizionale. Sì, i soldi li gestite voi? Cioè io consumatore do a voi i soldi? Allora, Oggi operiamo con un modello di partnership con Banca Sella, quindi tramite Monifarm noi di fatto apriamo un conto in Banca Sella per il cliente dove vengono depositati i suoi soldi, però sì, tutto il resto è fatto tramite Monifarm. Perché è vero una cosa, che il sistema bancario, molto criticato, molto spesso si sento critiche al sistema bancario, però poi guardo le ricerche, c'è ancora una fiducia incredibile nei confronti delle banche, cioè uno prima di dar soldi ad altri dice ma meglio dargli alle banche, no? Sì, assolutamente, anche perché i soldi sono veramente importanti per noi, sono il frutto del nostro lavoro e quindi è una decisione che deve essere presa con molta, diciamo, tranquillità e anche con del tempo, e quindi Monifarm è da 4 anni che siamo qua e ci vuole tempo per queste cose. Quindi dice, avere un partner bancario comunque è utile, è importante. È stato utile soprattutto nella prima fase, sì. Sì. Senti, la tecnologia che ruolo ha in tutto ciò? Allora, noi siamo una società di cui metà fondamentalmente sono persone di tecnologia, e la tecnologia per noi è il mezzo con cui riusciamo a costruire la soluzione di investimento nel modo che vogliamo noi, e quindi fondamentalmente è una soluzione di facilitatore ed è centrale a tutto il processo di investimento, dalla sottoscrizione del prodotto alla gestione proprio alla, diciamo, alle scelte di investimento fino alla facilità di fruizione del servizio. Sì, allora la parte online con cui io interagisco, che ne so, decido cosa, come gestire l'investimento è abbastanza comprensibile. È molto più complicato capire come voi utilizzate la tecnologia per darmi dei suggerimenti, perché buona parte del vostro lavoro è dare dei suggerimenti di investimento, che ne so, investi nel tal fondo oppure in un altro strumento finanziario. Assolutamente sì, la cosa divertente, se vuoi, è che in realtà la tecnologia è quasi meno presente nelle decisioni di investimento, perché alla fine noi abbiamo un team che prende delle decisioni sulla base della loro esperienza, della loro capacità effettivamente di guardare e capire quello che succede in mercati. Questi sono umani. E questi sono persone, sì. Sì, okay. Quindi anche se c'è un supporto decisionale molto forte, nel senso che noi utilizziamo la tecnologia per analisi e per cercare di capire che cosa succede e che cosa consigliare, sì, però la decisione ultima è presa da delle persone. Vabbè, questo potrebbe anche confortare alcuni, però sì, c'è un mega trend che si chiama robot advisory, sì, cioè suggerimenti dati dai robot. Che cosa significa tutto ciò? Allora, noi siamo esattamente nel trend, nel senso che noi siamo un robot advisor e spesso e volentieri l'etichetta è stata un po' inflazionata, perché molti dei nostri colleghi lavorano esattamente come noi, in cui in realtà la tecnologia è centrale nel processo di investimento, ma più proprio per facilitare e per rendere semplice una cosa che tradizionalmente è complicata, non necessariamente nelle decisioni di investimento. Sì, ma però cosa fanno? Perché robot? Perché il servizio è tipicamente online, quindi tu non hai una persona fisica che viene a casa tua o che effettivamente si presenta, ma il consumatore può fare tutto fondamentalmente da solo. Online. E c'è anche una parte di analisi dei mercati fatta da robot? Sì, fatta come lo usiamo noi, sono degli algoritmi che noi utilizziamo per l'analisi, non tanto per la decisione, ma per analizzare fondamentalmente. Per analizzare il mercato. E quindi cosa fa? Adesso capisco che è complicato raccontare cosa fa un algoritmo, ma che parte del lavoro umano sostituisce? Allora, sostituisce sicuramente parte della relazione, nel senso che le notifiche, le email, la user experience, quindi proprio il servizio online, dalla descrizione del portafoglio, eccetera, eccetera, questo è tutto automatizzato. Sostituisce la parte di profilazione, di allocazione col portafoglio, quindi noi capiamo chi sei tramite un algoritmo, fondamentalmente capiamo qual è l'investimento giusto per te tramite un algoritmo e poi aiuta il comitato, nel nostro caso il comitato investimenti, a guardare quello che succede sui mercati. Per esempio ci dà delle indicazioni su che cosa succede sul mercato italiano piuttosto che sul mercato cinese, che però noi come comitato investimenti decidiamo se attuare oppure no. Il vantaggio maggiore secondo te dell'utilizzo di algoritmi per fare tutto ciò, che poi viene utilizzato già ampiamente anche nelle banche, non è che siete gli unici, diciamo. Secondo te il vantaggio principale è che ci si azzecca di più nelle decisioni degli investimenti o si riescono a ridurre i costi che allora, ci sono nell'investimento? Secondo me è duplice, nel senso che da un lato la tecnologia ti permette di scalare, quindi come hai detto bene sì. tu, quindi di proporre delle soluzioni più semplici e trasparenti a un costo che tendenzialmente è una frazione di quello che dovresti avere se noi non abbiamo branch, semplicemente, no? Se non abbiamo filiali. Uffici, filiali, certo, E quindi questo è un potenziale enorme, anche la distribuzione, cioè noi il fatto che tu possa online in 10 minuti sottoscrivere l'investimento è una cosa fondamentale, cioè la semplicità di accesso certo, al servizio. Dall'altro lato ti permette di decidere meglio, quindi ti aiuta a prendere delle decisioni che spesso e volentieri tradizionalmente sono prese senza grande cognizione di causa o di analisi dei dati, e questo in teoria nel lungo periodo dà risultati migliori. Sì, e quindi se tutto ciò è vero, ma io sono convinto che sia vero, noi stiamo di fatto come risparmiatori anche finanziando un sistema, chiamiamolo bancario, che fatica a utilizzare la tecnologia e quindi che costa un sacco di soldi. Sì, assolutamente sì, che costa un sacco di soldi e che usa delle logiche distributive che sono ancora molto, diciamo, hanno un sacco di conflitti di interesse intrinseco. Sì, sono superate dalla tecnologia. Sono care, fondamentalmente, quindi alla fine con Money Farm paghi lo 0,7% per investire i tuoi soldi. E la stessa cosa probabilmente ti costerebbe più del doppio se vai in una filiale di una banca. Sì, sì. Senti, ti faccio un paio di domande ancora su questi trend che ogni tanto sentiamo citati. Voi siete all'interno di questo grande flusso che si chiama FinTech, cioè la tecnologia a supporto della finanza. Spiegami meglio però. Allora, FinTech è un termine che quando ho iniziato a lavorare in FinTech non esisteva, quindi è una cosa abbastanza nuova, e quello che vuol dire è cercare di unire delle competenze finanziarie, delle competenze tecnologiche per proporre delle soluzioni al consumatore che siano migliori fondamentalmente. È un trend che ha visto investimenti nel corso del 2014 per oltre 12 miliardi di dollari, quindi praticamente 4 volte l'anno prima, quindi in crescita esponenziale. È un trend a cui direi che tutti i principali fondi di venture capital stanno partecipando, stanno entrando, ed è un trend che va ad attaccare, se si può dire, un'industria che tradizionalmente ha una, come sottolineavi tu, dei sistemi costosissimi da essere mantenuti e conseguentemente un servizio al consumatore spesso e volentieri non all'altezza delle società tech che ci sono oggi. Concordo che in molti casi, non in tutti naturalmente, perché la componente umana è ancora importante, però in molti casi il sistema bancario fatica a... Poi è chiaro che far curvare un transatlantico non è mai facile, no? No, infatti io lo dico sempre, con quando parlo con le persone del management delle banche, e devo dire che in Italia abbiamo forse la migliore banca europea, che è Fineco, senza dubbio. Cioè come banca digitale. Come banca digitale, sì, sono bravissimi, hanno assolutamente chiaro il problema, è complicato questo è il vantaggio di essere una startup, che noi rifacendo tutto da zero possiamo innovare, possiamo sperimentare. Sì, sì, infatti questo hai ragione, hanno consapevolezza del tema, tant'è che quasi tutte le banche, tutte, almeno le grandi banche, stanno cercando di proporsi in modo diverso e di usare anche la tecnologia. Anche investendo nel fintech, nel senso che quasi tutte le grandi banche, Santander, BBVA, anche Generali, penso abbia annunciato una porzione di investimenti di capitale a rischio proprio dedicato al mondo del fintech. Sì. Senti, il digital wealth management, stessa cosa? Allora, il digital wealth management è quello che facciamo noi, perché noi oggi robo advisor è un termine un po' riduttivo di quello che facciamo, e quello che vogliamo arrivare, se tu pensi Money Farm, fra 10 anni deve essere il posto dove se tu hai soldi in più vanno e vengono gestiti sulla base di chi sei, del tuo ciclo di vita, di dove sei in quel momento, e questa cosa verrà automatizzata tramite la tecnologia, che è il wealth management per tutti fondamentalmente. Sì, quando tu dici se ho qualche soldo in più da investire, dici anche 5.000 euro? Sì, noi abbiamo un sacco di clienti che iniziano con il classico piano di accumulo da 100 euro al mese. Ah, quindi insomma è proprio popolare. Sì, è anche il termine wealth management tradizionalmente è stato usato per cercare di parlare di grandi patrimoni, ma in realtà il wealth in inglese vuol dire benessere, ricchezza vuol dire il tuo patrimonio, sì, e chiunque ha un patrimonio, può essere piccolo o grande, e chiunque deve gestirlo. Ma avete anche clienti da milioni di euro? No, in realtà il nostro diciamo, ne abbiamo qualcuno, però il nostro obiettivo sono clienti che hanno ovviamente delle disponibilità, quindi, però stiamo parlando sempre di, diciamo, dell'intorno di 50-100 mila euro. Sì. Vorrei concludere tornando all'annuncio che avete fatto di questo investimento importante di 16 milioni. Hai detto che aprirete presto in Gran Bretagna. Corretto. Che è il mercato più fresco da questo punto di vista? Allora, devo dire che da questo punto di vista Londra in particolare ha avuto una grande spinta anche da parte del governo per diventare il centro del fintech mondiale, e ci sta riuscendo. Questo purtroppo per noi. Per noi italiani, certo. E poi c'è quello che è una regulation che dovrà arrivare anche in Italia, se ne è parlato, MiFID 2, adesso è un tema un po' tecnico, però in Inghilterra l'hanno adottata prima, e questo cambia delle logiche distributive, permettendo un'accelerazione dei servizi come il nostro. Molto bene. Giovanni, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questo tema e tutte queste cose che stanno accadendo, perché stanno accadendo più di quanto si veda. Quanti sono i vostri clienti, lo dite? No, non diciamo. Però nell'ordine di? Nell'ordine delle migliaia. Delle migliaia, sì, quindi sì. Insomma, comunque è un fenomeno che è già rilevante. Assolutamente, se no ti assicuro che non avremmo preso 16 milioni di mesi. Bene, grazie, a presto, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, una breve pausa, riprendiamo tra poco, parleremo di data center e di pubblicità online. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco parliamo di data center. Negli ultimi mesi ci sono stati alcuni annunci molto importanti dell'apertura di data center per il prossimo anno nell'area di Milano. Allora la domanda è: ma perché in questo momento ci sono tutti questi annunci? Sono tutti diventati pazzi per il cloud? E perché tutti a Milano? Vabbè, ne parliamo tra poco. Adesso parliamo di pubblicità digitale. C'è un trend di cui vogliamo parlare che riguarda gli investimenti pubblicitari nel vecchio mondo, anche nel mondo della radio. Non si sa a quali spot vengono ascoltati, se pensiamo al mondo della radio, oppure quali spot vengono effettivamente visti, se pensiamo al mondo della TV. Uno magari, mentre parte la pubblicità, potrebbe andare al bagno, o potrebbe far qualcos'altro, potrebbe abbassare il volume. Però invece su internet si possono fare tante cose e si può tracciare tutto, anche quello che viene effettivamente visto. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Angelini, che è amministratore delegato del CEO e il fondatore di Sensemakers e country manager di Comscore, che è una società di ricerca e analisi legate a internet americana. È una cosa molto interessante e sicuramente non conosciuta dai non addetti ai lavori. L'ossessione dell'investitore è sempre stata quella di capire se effettivamente il suo messaggio è stato visto, ha recepito il target che intendeva raggiungere. Oggi il mezzo internet dà la possibilità, grazie alla tecnologia, di capire se lo schermo del computer che in quel momento è attivo ha effettivamente illuminato o un banner o un video pubblicitario. Quindi siamo in grado di dire se effettivamente quello spot pubblicitario è stato illuminato da quel PC per un minutaggio e per una percentuale, diciamo, di schermo tale da renderlo visibile all'utente finale. Quindi quando io vado su un sito internet e guardo un sito internet, voi siete in grado di dire se io effettivamente ho visto la pubblicità che ha all'interno di quel sito internet? Ma se ad esempio entro e clicco subito su un'altra pagina, cosa succede? Che cosa siete in grado di misurare? Fino a che punto? Allora, qua c'è una definizione, diciamo, standard a livello internazionale. Viene considerato visto un banner che è stato illuminato per almeno un secondo per il 50% della superficie, oppure un video che è stato illuminato per il 50% della superficie per 2 secondi. Quindi noi siamo in grado di dire se effettivamente lo schermo che in quel momento era illuminato, cioè quello che appariva sullo schermo di chi stava navigando in internet, è rimasto per almeno 2 secondi e per il 50% della superficie in caso di display, o 2 secondi, 50% della superficie in caso di video, aperto su quello spot. Quindi noi non siamo in grado di dire se la persona ha effettivamente visto quello spot, perché tu potevi essere fisicamente girato da un'altra parte. Siamo in grado di dire che in quel momento quello schermo di quel PC aveva correttamente illuminato quella pubblicità. Questo vale anche per il mobile, per lo smartphone, per i tablet? Questo vale a oggi, diciamo, per tutti i device, e quindi oggi siamo in grado di fare misurazioni sia su desktop che su mobile o su tablet. Ora, naturalmente voi non misurate tutto il mercato, misurate cosa? Noi misuriamo tutti quegli investitori che decidono di tracciare la loro pubblicità, perché ovviamente l'investitore oggi, diciamo, alloca le proprie risorse, decide magari di investire in internet rispetto che su altri mezzi in funzione della misurabilità e dell'efficacia dell'investimento. Oggi, diciamo, internet è in grado di restituire questa misurazione, gli altri mezzi no, cioè nessuno degli altri mezzi è in grado di dire se effettivamente questa opportunità di essere vista è stata misurata o non è stata misurata. Quanto nuova è questa cosa? È relativamente nuova, negli Stati Uniti ci stanno lavorando già da 4-5 anni, diciamo che è entrata nell'uso comune, nelle negoziazioni, da circa un anno e mezzo. Il Media Rating Council, che è un organo di certificazione negli Stati Uniti, ha definito questi standard di cui stavamo parlando prima, i famosi 2 secondi, 50% dei pixel, a giugno del 2014, quindi parliamo di 18 mesi più o meno. In Italia? In Italia la stessa cosa, siamo abbastanza avanti, stiamo misurando in maniera massiva molti molti investitori, devo dire che è uno dei campi su cui l'Italia è allineata ai paesi più sviluppati da un punto di vista internazionale. Senti, questo come incide sui prezzi della pubblicità? Questa è una bellissima domanda. In una prima fase c'è stata una reazione molto scomposta, diciamo, degli investitori, perché oggi il dato di cui non abbiamo parlato è che mediamente sul mercato una pubblicità internet su due non viene mai vista. Quindi chi ha investito si è sentito in qualche modo, come dire, non esattamente tutelato da chi gli pianificava il mezzo, perché sapere che una su due non viene mai vista non è esattamente un dato confortante. Diciamo che non sappiamo quale sia il tasso di visualizzazione sugli altri mezzi. Oggi ce l'abbiamo misurato su internet, quindi in un primo momento c'è stato un abbattimento del prezzo, adesso, diciamo, c'è un'allocazione più efficiente del prezzo, nel senso che l'investitore ha deciso di pagare solo ed esclusivamente la pubblicità che ha un'opportunità di essere vista, e si stanno alzando i prezzi. Quindi oggi, mentre prima si pagava un tanto al chilo a prescindere dal fatto che fosse vista o non fosse vista, oggi si pagano un po' di più le pubblicità che vengono viste. Mi verrebbe da dire un po' bizzarro, perché nel vecchio mondo della pubblicità c'era un detto: io investo, so che metà della pubblicità non verrà vista, ma non so qual è la metà. Esatto. La stessa cosa su internet più o meno, no? Sì, diciamo che oggi internet sai qual è la oggi questo dubbio è venuto meno, nel senso che su internet sai effettivamente qual è la componente che è stata vista. Poi, prima di dire che la pubblicità è stata efficace, bisogna valutare altri parametri, ovviamente, quindi sai effettivamente se è diventato un ricordo di marca, se è aumentato l'intenzione d'acquisto e se poi si è trasformata in un acquisto concreto. Questi sono passi successivi, riusciamo a fare anche questo tipo di misurazione, però sicuramente oggi l'investimento sulla pubblicità internet è decisamente più trasparente, tracciabile e misurabile rispetto agli altri mezzi. Ti faccio un'ultima domanda su un dato che mi ha sorpreso. Tu hai parlato di non-human traffic, traffico non umano. Ma che cos'è questo traffico non umano? Diciamo che internet si sta sempre più, tra virgolette, robotizzando, automatizzando, sta diventando un ecosistema sempre più complesso, dove per esempio, mentre prima la pubblicità veniva comprata ed acquisita attraverso interazioni umane, cioè c'era qualcuno che decideva dove investire, altri che pianificavano con delle persone, oggi è sempre più affidata a piattaforme automatiche che scambiano questi spazi. Purtroppo, diciamo, il crescere della automazione va di pari passo con un fenomeno di frodi e con un fenomeno in cui vengono, diciamo, erogate, vengono mostrate impression a soggetti elettronici che sono assolutamente non, appunto, umani, che non danno dietro nessun tipo di interazione personale. Ancora questo fenomeno in Italia è molto contenuto, parliamo di tassi tendenzialmente irrilevanti ai fini dell'efficacia pubblicitaria. Nei paesi dove i processi di automazione delle negoziazioni degli spazi sono più diffusi e più estesi, cominciano ad impattare, vediamo alti tassi di traffico non umano. Quindi ci sono dei software, dei robot automatici che vedono la pubblicità di fatto, ma per quale motivo vedono la pubblicità? Perché, diciamo, chi eroga pubblicità ha interesse a far vedere che quell'advertiser è stato mostrato più volte, quindi se non c'è dietro un essere umano che effettivamente ha compiuto un'azione intenzionalmente perché è arrivato su quel sito, si possono simulare questi percorsi di navigazione o gli accessi a un sito, per cui quel caricamento di pagina non è associato appunto a un'azione intenzionale di qualcuno che sta navigando, ma è associato a una chiamata di un agente elettronico che lo fa in maniera fraudolenta, perché poi di fatto le impression vengono vendute a volume e quindi io aumento artatamente il volume di impression che dico essere state viste. Poi in effetti non sono mai state erogate a un uomo o, come dicevamo prima, non hanno mai avuto un'opportunità di essere viste. E voi li beccate tutti? Diciamo che ne becchiamo la maggior parte, poi qua è un po' come Totò e Peppino, cioè fatta la legge trovato l'inganno, nel senso che la sofisticazione sulle frodi informatiche e tecnologiche è elevatissima, diciamo è un cane che si morde la coda, ogni giorno scopriamo nuove forme di frode, cerchiamo di rintracciarle, il nostro valore aggiunto è che abbiamo 2 milioni di persone che navigano nel mondo che tracciamo quotidianamente, quindi abbiamo un'indicazione molto chiara di quali sono i comportamenti di navigazione in termini di velocità di click, di interessi che normalmente mostra una persona che naviga, e quindi riusciamo a capire quando quello che osserviamo sulla rete, diciamo, non è coerente con questi comportamenti umani, e quindi riusciamo a identificarli. Adesso cambiamo argomento, parliamo di data center. Buona parte delle cose che noi facciamo su internet in realtà accade, viene elaborata all'interno di un data center. Sicuramente con l'esplosione dei dati che sono generati da noi, dalle aziende, da tutto quello che accade su internet, dati che vengono per la maggior parte immagazzinati e rimangono da qualche parte, a causa di questa esplosione sta crescendo l'esigenza di avere data center sparsi per tutto il territorio. Negli ultimi tempi, ascoltando 2024, molti dei nostri ascoltatori lo ricorderanno, sono stati fatti alcuni annunci relativi all'apertura di data center. Allora, due in modo particolare molto grossi riguardano Milano. Stiamo parlando di infrastrutture che costano milioni di euro, che occupano grandi spazi, che consumano un sacco di energia elettrica. Però c'è chi dice che se uno va a guardare la densità di data center di un paese capisce il livello tecnologico di quel paese e anche l'importanza che quel paese ha nell'economia digitale. Però che cosa sta succedendo? Perché c'è questa, non direi esplosione, però sicuramente un momento molto importante per l'Italia e per la città di Milano. Cristiano Zanforlin è Managing Director di Wall Data. Wall Data è un operatore di data center che sta appunto costruendo un data center che si chiama Internet Park alle porte di Milano. Benvenuto a 2024. Grazie. Wall Data, che è scritto W-H-O-L e Data, Wall Data, esattamente, all'inglese, è una società che sta costruendo, inizierà a breve a costruire un data center che si chiama Internet Park a Pioltello. Se non siete di Milano, è una zona vicina a Milano, a pochi chilometri da Milano, insomma in un quarto d'ora si arriva dalla periferia di Milano a Pioltello. Quando sarà pronto? Sarà pronto l'anno prossimo, tarda primavera, inizio estate, il tempo di fare i collaudi. Siamo già in fase avanzata di costruzione, entro Natale l'edificio sarà, lo shell, quindi la parte civile sarà ultimata, inizio anno inizieremo con la costruzione degli impianti. Poi spieghiamo bene cos'è un data center tipo, perché è una cosa interessante. Però per metterci dentro cosa? Per comprendere le telecomunicazioni è molto utile provare magari a ragionare su altri settori. Telecomunicazioni e settori dei trasporti sono molto molto sovrapposti come tematiche, anche proprio come vie fisiche. Le autostrade sono le vie più brevi che collegano due città, e quindi sono le vie migliori nelle quali per esempio stendere fibra ottica. Che cos'è un data center? Un data center è come un aeroporto. I data center sono catalogabili esattamente come gli aeroporti. Ci sono aeroporti nazionali, ci sono aeroporti internazionali, ci sono aeroporti intercontinentali. Un data center neutrale è un aeroporto intercontinentale, cioè un aeroporto che consente a grandi player su scala mondiale di scegliere quel sito per poter erogare i propri servizi agli utenti che risiedono in quel paese. Sempre per far capire ai nostri ascoltatori cosa ci sarà dentro ad un data center di questo genere, voi che cosa offrite e a chi offrite i vostri servizi? Noi offriamo i nostri servizi a chiunque abbia bisogno di operare un proprio data center. Quindi il nostro servizio si limita a fornire le pareti, l'energia, il raffreddamento, il tutto questo in un contesto di massima sicurezza. La connettività noi la mettiamo a disposizione dei clienti sotto forma di presenza di altri operatori, ma poi il cliente arriva nel nostro sito con il suo partner, che quasi mai è esclusivo. Da noi prenderà la connettività da Interut, da Retelit, da Fastweb, dagli operatori che saranno presenti, e noi contiamo di averli tutti. Di fatto al momento non ci sono motivi. L'energia elettrica però me la fornite voi? Noi forniamo l'energia elettrica, forniamo il raffreddamento e basta. Quindi se io ho il mio fornitore di energia elettrica non posso sceglierlo? Dipende dalle dimensioni. Oltre un certo dimensionamento, addirittura noi consentiamo di prendere in affitto soltanto le pareti e di portare la propria diciamo così, corrente elettrica. Quindi quello che noi non facciamo, l'affidabilità del luogo fisico. Noi stiamo costruendo un luogo che è idealmente in grado di ospitare gli apparati che il cliente si porta e di far funzionare il business del cliente. Noi ci limitiamo a mettere a disposizione del cliente un'infrastruttura che è esattamente equivalente a quella che il cliente magari sta già operando a casa sua, però ha le sue persone impiegate direttamente nel loro sito. Noi possiamo dare al cliente la possibilità di utilizzare le nostre persone che attaccano i cavi, oppure abbiamo anche degli uffici e il cliente viene da noi, si prende l'ufficio, mette lì tre persone, ci mette il suo logo sul data center e quella private suite, quella è di proprietà del cliente. Chiarissimo. Quindi tutti quelli che poi vanno sul mercato a offrire servizi di cloud computing possono venire da voi e mettere i propri server, le proprie macchine e poi gestirli da dove vogliono. Esattamente. Questo è il trend mondiale dei data center, o ci sono aziende che sono talmente grandi che comunque, alle quali comunque conviene costruirsi il proprio data center, i propri muri, la propria connettività, il proprio spazio fisico con le proprie guardie armate che se entri ti sparano? Questo è un trend mondiale. È un trend mondiale che non riguarda solo il data center, ma riguarda di fatto la dismissione di asset cosiddetti no core in tutti i settori. Pensiamo alle banche, pensiamo che si liberano degli immobili piuttosto che altri settori. Nei data center è di qualche giorno fa l'annuncio di un operatore grandissimo americano che ha detto: vendo tutti i data center, io non esco dal settore, rimango come affittuario, ma le mura e gli impianti non li voglio più nei miei asset, quindi li vendo e vado in affitto. Così facendo, chi gestisce gli apparati, chi gestisce fisicamente lo stabile e gli impianti, può dedicarsi al 100% a fare quello. Cioè questo è quello che stiamo andando incontro a una estrema specializzazione in tutti i settori. Nel data center nei prossimi anni difficilmente si potrà gestire tutto il data center, il server, lo storage, perché comunque porta a una defocalizzazione. Bravissimo. Quindi sta succedendo di fatto quello che già da qualche anno è successo negli uffici. Assolutamente. Molte aziende hanno a un certo punto detto: io l'ufficio lo voglio solo gestire, però l'immobile, quindi anche tutta la gestione, come si dice, della facility viene... Assolutamente. Noi abbiamo anche richieste di realtà che ci stanno chiedendo spazi di coworking, che evidentemente non saranno contigui al data center, perché sarà una struttura militarizzata dal punto di vista della sicurezza, ma in un ambiente, in un campus, tra virgolette, come l'americana, come si dice, avere spazi di coworking, quindi di utilizzo giornaliero e non per forza di cose così permanente, stiamo facendo valutazioni. Quindi il sito in sé parte con questo progetto, ma sicuramente cambierà forma, ed è per questo che noi non costruiamo tutto subito. Noi costruiamo un nucleo e poi ci adatteremo in base a quelle che saranno le richieste del mercato. Allora, a proposito di data center, va detto che negli ultimi tempi ci sono stati alcuni annunci, l'ultimo molto recente anche di Microsoft in Germania, che riguardano un po' tutta Europa. E qui un motivo è dato dal fatto che recentemente la Corte di Giustizia Europea ha detto che gli accordi, il famoso Safe Harbor, comunque gli accordi tra Europa e Stati Uniti per la gestione dei dati non vanno più bene, devono essere riconsiderati, riscritti, e quindi i dati contenuti in data center negli Stati Uniti, se sono dati di europei, questa cosa non va più bene, le società potrebbero andare incontro a contenziosi. Allora, in questa fase, visto che ancora non ci sono accordi, alcune società stanno annunciando e stanno pensando di fare data center in Europa per archiviare e tenere i dati degli europei, per essere in regola con le normative europee. Molti di questi annunci riguardano la Germania, perché la Germania ha una legislazione relativa alla privacy molto stringente, quindi se si fa il data center lì poi si è in regola con tutto, con tutta l'Europa. Però, visto che queste fabbriche, questi magazzini di dati sono comunque importanti per l'economia digitale, devono essere fatti in altri paesi, non solo in un paese. Ma negli ultimi tempi abbiamo visto due grandi annunci, quello di cui stiamo discutendo in questa puntata di World Data, ma anche un altro di SuperNAP International, che riguardano la città di Milano. Perché tutti a Milano? Perché Milano è di fatto l'approdo italiano, l'approdo per l'Italia delle grandi connettività internazionali. Le connettività internazionali sono le rotte, tra virgolette, le grandi dorsali di fibra ottica. Che portano terabit di dati. Ormai non, probabilmente non ha più neanche senso quantificarli. Stiamo parlando proprio di quantità di dati che cresceranno, che esploderanno. Quindi Milano è ben interconnessa, quindi va bene. Ottimamente interconnessa. È la città italiana nella quale arrivano le dorsali da Est Italia, da Nord e da Ovest. Mi dici qualcosa su questa infrastruttura? Oggi si dice che queste infrastrutture sono a prova di bomba atomica. Adesso non so proprio se è bomba atomica, però. No, prova di bomba atomica lo escludo. Diciamo che se scoppia una bomba atomica, a prova di bomba atomica per tutti, lo escludo. Sono infrastrutture che devono comunque consentire che i sistemi non perdano mai la corrente, sono infrastrutture che devono consentire che i sistemi siano adeguatamente raffreddati, ma sempre di più sono infrastrutture che devono consentire un abbattimento della bolletta energetica. Il costo di raffreddamento è circa il 70% del costo di mantenimento e di gestione di un qualunque data center. 70% è energia elettrica? Circa il 70% è l'energia, il 70% è energia elettrica, assolutamente. Pazzesco. E quali sono le altre caratteristiche che fanno di un data center di questo genere, cioè di un luogo dove poi verranno messi server dalle varie società, a prova comunque di disconnessione sia di connettività che elettrica? Sicuramente tantissimi livelli di ridondanza interne, quindi sapere che all'interno dell'edificio ogni connessione deve avvenire almeno su due vie, anche da un punto di vista elettrico. Il fatto di collegare i server sono quasi, nella maggior parte dei casi, possono ricevere due alimentazioni. Queste due alimentazioni, se sono completamente separate nei loro percorsi fino alle fonti, non risentono l'una un incidente che può cadere sull'altra, quindi il server di fatto è sempre up. Il tema della certificazione è sempre più sentito, però è anche vero che il cloud computing per sua natura sta distribuendo sul territorio, no? C'è un po' quasi come se fosse un ritorno alle origini. Internet è nata così, no? C'è un ambito militare per evitare singoli fault di singole location, la comunicazione veniva automaticamente instradata su altre vie. Sì. Stessa cosa sta facendo il cloud computing, quindi probabilmente viene anche meno rispetto a qualche anno fa la necessità di avere data center iper affidabili. È sufficiente avere data center molto affidabili, perché oggi il dato è comunque distribuito su più siti, quindi se cade uno, cioè se si disconnette uno, o perché viene a meno la corrente elettrica, oppure perché banalmente, cosa che succede mentre fanno lavori stradali, viene tranciato un cavo, automaticamente prende il controllo un altro data center, e quindi quando io guardo un video su internet lo continuo a vedere perché automaticamente mi viene reinstradato da un'altra parte. Esattamente. Allora, si stanno costruendo data center a Milano, anche perché dovete sapere che buona parte della rete internet italiana passa per Milano, ma passa quasi tutta per una zona dove ci sono un sacco di data center, che è in via Caldera. Se esplode una bomba in via Caldera si ferma tutta la internet italiana. Allora, che cosa si sta facendo? Il vostro data center e anche quello di altri player che nasceranno il prossimo anno sono a quanti chilometri da Caldera? Noi siamo a 20-22 km da Caldera, abbiamo scelto una distanza così apparentemente vicina, ma in realtà sufficiente per garantire comunque una ridondanza sia da un punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto dal punto di vista delle reti. Caldera in sé è un sito le cui fibre ottiche comunque in un raggio di qualche chilometro sono le stesse, quindi è importante un sito, diciamo, di backup che sia sufficiente, né troppo vicino né troppo lontano. Di fatto avere un'infrastruttura di questo genere serve per rendere più affidabile la rete internet italiana, al di là di io che guardo un video su internet e se si ferma posso anche farmene una ragione, anche se mano a mano che crescono i servizi video o comunque in generale tutti i servizi su internet, io consumatore mi aspetto che ci sia una continuità, così come ascolto la radio, guardo la TV e il servizio è nel 99,9% dei casi costante e non cade mai, così come la corrente elettrica in quasi tutte le città è al 99,9% dei casi garantita, internet dovrebbe essere così, ma non è sempre così, giusto? No, assolutamente. In realtà noi dipendiamo molto di più di quello che in realtà crediamo essere la dipendenza da internet. Oggi ci sono aziende che hanno una rete di trasportatori che letteralmente si fermano, parcheggiano il camion se si interrompe la comunicazione con i sistemi. Quindi immaginiamoci un mondo di robot che spenta la corrente si fermano. Oggi ci sono tante situazioni di questo tipo, quindi è sempre più importante garantire la massima affidabilità, e questo a livello di ecosistema oggi significa per noi dare una mano e in tempi molto rapidi dare l'opportunità agli operatori di costituire un secondo polo, poi magari ce ne sarà un terzo, un quarto, sperabilmente, in cui iniziare a ridondare un po' quello che oggi è, ahimè, concentrato in un unico sito che, poverino, sta reggendo tutto da solo. Sì. Quanto investite voi? Il nostro investimento prevede un master plan di circa 60-70 milioni di euro nel suo complesso. La fase iniziale però è molto più snella. Cioè, tipo? 15 milioni. Vabbè, comunque non sono mica... parte. Non sono pochi. La vita, diciamo così, utile di un data center è mediamente tra i 10 e i 15 anni. Il sito di Caldera, per esempio, ne ha 20, anche più, 21. Quindi, e comunque sta funzionando. Quindi il nostro è un investimento di tipo real estate basato quindi sul lungo periodo. Quando facciamo riferimento al sito di Caldera, ricordiamo appunto c'è questa zona, non è di una società, ci sono tante società che hanno le proprie infrastrutture in questa zona che è di... che ne so, un chilometro quadrato, una roba proprio circa, sì. Piccolina. Sì, sì, insomma, sì. Lì arrivano tutte le fibre ottiche di tutta Italia che si connettono poi con il mondo. Lì ha sede anche l'internet exchange più importante d'Italia, il Mix di Milano, non è l'unico, ma è sicuramente di gran lunga il più importante. E voi avete una collaborazione col Mix di Milano, giusto? Sì, con Mix abbiamo condiviso immediatamente questo progetto e ci ha fatto molto piacere il fatto che Mix abbia visto sin da subito quelli che erano gli ingredienti necessari allo sdoppiamento di questo sistema. Mix è il consorzio di tutti gli operatori di telecomunicazioni italiani, quindi di fatto è una sorta di certificazione di neutralità, tant'è che Mix al momento è presente, diciamo così, solo in Caldera e anche, diciamo, altri switch in altri siti, però una location così importante doveva essere per forza neutrale. Quindi è anche per questo che, dato che in Italia ci sono quasi esclusivamente telco data center, quindi data center gestiti da operatori di telecomunicazioni, Mix probabilmente non avrebbe mai accettato di andare di fare questo passo presso un data center non neutrale. Molto bene, grazie e in bocca al lupo, buon lavoro. Crepi, grazie. Torniamo la prossima settimana, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, avete ascoltato la versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, continuate a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Preferisco ricevere delle email piuttosto che messaggi su Facebook e tweet che poi vanno persi, insomma si riescono a organizzare molto male. Comunque ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono, continuate a correre perché sono moltissimi quelli che corrono con nelle orecchie 2024. Speriamo sia una buona compagnia e anche un po' di energia per fare sport. Ci sono molti altri nostri ascoltatori che ci ascoltano in automobile mentre si spostano per lavoro o a volte anche per piacere sui mezzi pubblici, insomma ci sono tante modalità. Continuate a scriverci, faccio una specie di statistica, devo dire che quelli che fanno sport sono la maggior parte, almeno tra quelli che ci scrivono, poi saperlo insomma è molto complicato. È anche una buona cosa perché tutti dicono che fare un po' di sport senza esagerare tutti i giorni, oltre che mangiare anche una dieta variegata, non solo frutta, verdura, non solo carne, ma un po' di carne bisogna mangiarla, insomma è una cosa buona, quindi continuate a fare sport. Torniamo la prossima settimana, venerdì alle 22, domenica alle 13.30 o naturalmente in podcast. Grazie ancora per l'ascolto. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.